Radio 24. Libera la voglia di fare. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Arriva il cross dentro per Icardi! Tripletta in 26 minuti! Sta arrivando Candreva, Banega la passa a Gagliardini! È il gol dell'ex, è il 6-1! Gagliardini segna proprio contro l'Atalanta, il suo primo gol a San Siro. Va Banega! Che fa tripletta al lato della barriera! Settimo gol dell'Inter! 800 24 00 24, siamo qui fino alle 19, questo è il numero per prenotarvi ed intervenire. Oh, ci sono tanti temi in questa domenica delle goleade: l'Inter che ne fa 7 all'Atalanta, Napoli che reagisce dopo l'eliminazione dalla Champions, ne fa 3 al Crotone, poi goleade anche in fondo alla classifica. Fra i tanti temi c'è anche il post Juventus-Milan. Dopo il GR delle 18 vogliamo sapere da voi chi ha ragione e chi ha torto in questo tutti contro tutti, e cercheremo anche di capire che cosa accadrà martedì con il giudice sportivo. Io saluto Carlo Genta qui con me. Ciao Gio. Saluto, ciao subito Dario Ricci da San Siro. Ciao Dario. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Per partire da questo 7-1 che non si verificava credo da secoli a San Siro, c'è un precedente, un 7-2 Inter-Atalanta a marzo 1990. A quella era un'altra Inter e soprattutto era un'altra Atalanta. Mi aiutate a capire che cosa è successo questo pomeriggio, Dario? Ecco, proviamo a chiederlo al nostro primo ospite, Stefano Scacchi della Repubblica, che tra l'altro ha anche il compito, ci anticiperà un po' anche le sue pagelle che domani pubblica sul giornale. Per la prima volta nella sua storia in Serie A l'Atalanta ha preso 5 gol nel primo tempo, però va detto che Stefano, per paradosso, nel primo quarto d'ora meglio i bergamaschi dei nerazzurri. C'è stato anche questo episodio molto dubbio, il cross di Spinazzola, il tocco di braccio di D'Ambrosio che Irrati non ha però sanzionato con il penalty, poi i due gol di Icardi nel giro di 2 minuti, rigore compreso, hanno fatto esplodere la partita. Scriviamo, no? Anche questo, sì, tra i temi di domenica, l'episodio su un 7-1, prego. Beh, no, era sullo 0-0. Ah, sì. No, comunque ci aspettavamo una partita completamente diversa perché era un po' il big match della giornata dopo quello di venerdì sera a Torino. Invece l'Atalanta, come diceva Daria, si è proprio sbriciolata dopo un inizio tutto sommato equilibrato, forse anche conseguenza del fatto che Gasperini è venuto a giocare a San Siro in maniera molto offensiva, più del solito forse perché i due interni, diciamo, che accompagnano Petagna giocavano quasi da ale più che da mezze punte, e poi ecco è venuta fuori la capacità straordinaria dell'Inter di andare a fiammate. Cioè l'Inter è forse la squadra di Serie A che proprio dati alla mano riesce a segnare più gol nel più breve tempo possibile, no? E oggi l'ha fatto alla grande con quei 5 gol nel primo tempo, ma segnati addirittura in 17 minuti, quindi si è esaltata questa caratteristica eccezionale di questa squadra che quando può sprigionare il potenziale offensivo a pochi rivali. Tra i cori della curva interista, Stefano, spicca per la prima volta anche un "noi vogliamo Stefano Pioli". È un endorsement molto chiaro in un momento in cui, oltre a questa stagione, e l'Inter si rilancia alla grandissima con questo risultato, si comincia a pensare anche per la prossima, no? Sì, è stato anche un altro dei temi del pomeriggio, dopo settimane nelle quali Pioli insomma sembra un po' avere la scadenza a fine stagione, questi cori che non si sentivano da tantissimo tempo a San Siro per un allenatore, forse così convinti era addirittura dei tempi di José Mourinho, depongono a favore di Pioli. Ecco, a essere un po' maliziosi, forse non depongono a favore del successore in pectore numero uno di Pioli, che è Antonio Conte, che è ovviamente un grandissimo allenatore, ma forse... Tu dici che sono cori preventivi più che di appoggio per Pioli. Non lo so, per Pioli. No, adesso ecco, per fare un po' il malizioso, però... insomma, parliamo di un grandissimo allenatore, ma che ha un trascorso poi ben preciso, quindi a livello di insomma di storia da giocatore, di allenatore di club, non vorrei che anche ci fosse qualcosa di questo tipo, pensando appunto al nome che sì, ti è circolato. Le vie del tifo sono infinite. Io dico che, vista anche l'Inter di questo pomeriggio, credo che Mr. Zhang, cioè quello di Suning, dovrebbe chiedere i danni a chi ad agosto gli ha fatto scegliere De Boer. Sì, perfettamente d'accordo. Perso un sacco di tempo, guarda che Pioli sta parlando. Se ti allora, interessa. Pioli sta per parlare a Mediaset Premium, adesso lo sentiamo e liberiamo allora Stefano Scacchi, che ringrazio, collega di Repubblica, grazie Stefano. Grazie a voi. Ciao, sì, volevo. Perso un sacco di tempo, persi 3 mesi, tu invece Dario stai lì, sentiamo le prime battute di Pioli a Mediaset. La settimana poi si sono puntualmente verificate, quindi è stata una partita di alto livello, sicuramente siamo stati bravi noi a farla diventare facile, perché l'Atalanta è un avversario molto difficile da superare, non aveva perso nelle ultime 7 gare, aveva preso solamente 2 gol, quindi sicuramente la nostra prestazione è stata di alto livello. Fame, concentrazione, tanta voglia per dimostrare a tutti che quest'Inter vuole crederci fino alla fine nel terzo posto. Ma l'Inter vuole credere di poter giocarsi ogni partita con la possibilità e la convinzione di poterla vincere, questa è la cosa importante. Poi è chiaro che stiamo rincorrendo avversari molto molto forti che sono lì da parecchi anni nelle prime posizioni del campionato, quindi noi dobbiamo provare a vincere più partite sino alla fine. C'è soddisfazione sicuramente per la gara di oggi, ma sapere anche che questo di oggi è un risultato parziale, conterà solamente quello che faremo nella prossima gara, conterà solamente la posizione con la quale finiremo il campionato. Max, questo Pioli, le prime battute dopo Inter-Atalanta 7-1, Inter che rimane ancora in corsa per quel terzo posto, che vuol dire Champions League. Rimane ancora in corsa anche perché la Roma deve dare delle risposte. Sappiamo che sta attraversando questa crisetta di primavera o crisona di primavera, lo scopriremo. Se sarà una crisi vera, l'Inter torna prepotentemente in corsa. La Roma deve giocare con il Palermo. Se non batte il Palermo, allora cominciamo a credere sia crisi profonda. Inutile, Giovanni, mi pare dire che sia stata la migliore Inter della stagione. È pleonastico, è quasi banale dirlo. Icardi ha avuto un avvio con il botto, con un gol di rapina dopo una punizione, con un rigore addirittura Moya fuoco cucchiaio, e poi meraviglioso gol di testa, poi tripletta anche di Banega, insomma una grande festa. Banega che è stato riportato in mezzo al progetto, e credo che la grandezza di Pioli sia questa, cioè sì, uno per sì, volta sì, li ha recuperati tutti. Sì, a partire, ha cominciato con l'arrivo di Gagliardini, ha detto da questo si parte, e da lì è partito e ha recuperato per primo con Dombia, e poi uno per uno ha recuperato tutti i giocatori così come è giusto fare. Io sono molto curioso di sapere una cosa, la chiedo agli interisti, ma ovviamente oggi giorno di festa siete tutti contenti, ma vi fa particolarmente piacere perché avete battuto 7-1 Gasperini? Vi sta così sulle palle Gasperini da essere contenti anche per questo? Perché sì. Insomma, lui è stato... Sì. No, non l'hai battuto tu, Fred. Chiediamola a Dario Ricci. Dario. Allora, c'è stato anche sicuramente, questo? Sicuramente c'è stato anche questo, tra i cori di giornata, oltre a quelli che già abbiamo analizzato in merito a Pioli, ci sono stati i cori pesanti contro Gasperini da parte della curva e anche gli striscioni contro Buffon, no? Perché inevitabilmente sull'asse... Buffon, Pagliaccio, dacci le quote, ma insomma ci sta. Ci sta perché Giovanni, dai, ci sta perché Buffon si sono detto va bene, ma Gasperini è stato lì 3 giorni, è stato cacciato via, cioè non mi sembra ci possa essere tutto sto astio. Va bene che poi ha rimarcato... Beh, ogni tanto Gasperini parla dell'Inter, di questi suoi 3 mesi. Sì, ma è stata Dario, sua grande occasione perduta. Sicuramente le stoccate in questi anni tra il Gasp e l'ambiente nerazzurro non sono mai mancate. Lo chiedo dall'altro al nostro secondo ospite. Aspetta, amico, perché abbiamo il traffico. Allora sì. Non vi dico neanche il nome, così vi mentre lascio. Mentre Premium sta mostrando quello di cui ci parlavi, quindi il traversone di Spinazzola con tocco di braccio di D'Ambrosio, e mi sento di dire che era calcio di rigore. Traffico. No. Convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Tutti convocati. Allora, un istante, torniamo a San Siro, 800 24 00 24, chiamate, prenotatevi per intervenire in diretta, so, fino poi parliamo alle 19 di massa, poi parliamo di massa, io diventerò poi parliamo di massa, dopo il GR delle 18. Guarda, la provocazione su Gasperini, ne stanno arrivando tanti di messaggi. Gasperini, peggiore allenatore della storia dell'Inter, dietro di lui staccato di poco solo Tardelli. Ma ragazzi, ma è stato lì due giorni, e poi chi diceva da 5 anni lancia frecciate, uno shampoo ci voleva, questo è Marcelo. C'è anche chi chiede se l'Atalanta si è scansata o se più migliore Inter non è stata la peggiore Atalanta della stagione. Chi ha scritto che l'Atalanta si è scansata? Un paio di messaggi sono arrivati. Dario Ricci, siete vai. Matti, ragazzi, state scherzando. Allora, ancora a San Siro con Alessandro Pasini, amico e collega del Corriere della Sera, a cui faccio due domande in una. Alessandro, questo Pioli è allenatore da top Inter? E poi questa Roma è rimontabile, considerando che stasera ritrova quel Palermo, e un anno fa, perché ha buona memoria, ricorderete alla vigilia della gara col Palermo che casino scoppiò con quell'intervista di Totti al TG1. Ecco, dimmi pure. Ma guarda, io credo che Pioli sia sicuramente un allenatore da top Inter e lo sta dimostrando. Si può discutere, ma insomma sugli scontri diretti, si possono perdere. Io non organizzerei un processo su questo. Ale, però il modo in cui Alessandro, ha dato una... Sì, scusa, mi senti? Dimmi. Sono Carlo Getta. Sì. Ciao. Sì, ti sento. Ciao Carlo. Ciao. Allora, Pioli allenatore da top Inter. Fossi tu a mettere i soldi, ma tanti soldi, quanti quelli che io credo metterà. magari per tutti quanti noi. che metterà su Ning in quest'Inter. Allora, potendo scegliere, Pioli o Conte? Ah, vabbè. No, questa è una domanda a cui rispondo convinto, Conte, ma perché Conte io in questo momento lo ritengo il miglior allenatore del mondo, ma per distacco. In questo momento, si può discutere sulle classifiche assolute, in questo momento lo ritengo il miglior allenatore del mondo e quindi d'accordo, su questo non avrei dubbi. Però questo, come dire, non nega la prima parte della mia risposta, cioè, Dario. Comunque tu fai conto di essere la moglie del magnate russo o una delle tante mogli dello sceicco arabo che va a fare shopping in via Monte Napoleone. Contro di essere tu ti così. Scegli il meglio, questo è chiaro. Vai con la carta di credito illimitata. Con la carta di credito illimitata prendo Conte, non ho dubbi, ma guarda, anche se non avessi Pioli, cioè anche se avessi, vabbè, non voglio dire, insomma, Ancelotti, Mourinho, a quei livelli magari meriterei, ma insomma non lo so, perché guarda Conte, la capacità che ha Conte, poi tra l'altro andrebbe benissimo in questa squadra, perché insomma, diciamo la verità, mi sembra molto complicato che l'Inter possa fare la Champions, è ancora una squadra in costruzione, ancorché insomma già ben definita, non è come il Chelsea o come era la Juve che parte da un mezzo disastro, però è ancora in costruzione e nessuno meglio di Conte insomma fa sbocciare le squadre con un potenziale. Quanti ne dovrebbe cambiare secondo voi Conte? Perché noi ci stiamo fissando sull'allenatore, però anche il gruppo insomma non è malvagio, non tanti. Il gruppo non è malvagio sicuramente, però è molto migliorabile. Sicuramente il comparto terzini è notoriamente un punto debole. Io non lo so, anche questi Banega, Joao Mario sono tutti buoni giocatori, credo che però per una svolta di alto livello forse serva qualcuno ancora di profilo maggiore, poi sicuramente un ricambio. O magari anche un partner per Icardi, perché non è detto che tu debba sempre giocare con una punta e magari giocare con due che non siano Palacio, che purtroppo mi sembra arrivato, o anche Der, che alla fine insomma è quello che è. Ecco, insomma, miglioramenti di questo tipo. Forse anche qualcuno in difesa, un centrale, perché non so Miranda quanto ancora possa... Però insomma la base è molto buona. E quindi avessi quella carta di credito investirei ovviamente anche in Golan o Cross o Modric, ad esempio, poi ne riparliamo. Esatto. Nangolan per esempio, immaginatelo insieme a Gagliardini con di credito davvero deve essere limitata. Ma lì si parla di carte di credito illimitate, ragazzi. si parla di carte di credito illimitate. D'altra parte le grandi squadre le puoi fare solo a carta di credito illimitata, insomma, poi dopo devi, magari se sei bravo riesci a fare degli affari. In fondo Banega, non dimentichiamolo, l'hanno preso a zero lire, quindi per quello che sta facendo è un grossissimo affare, benché poi insomma a me abbia anche deluso varie volte in questo campionato, quindi non facciamoci accecare da ma l'abbiamo da detto questa, prima che comunque Banega rimane è il una prodotto partita... di Pioli, Banega è il prodotto di Pioli, non è solo come la dici? Partita Banega è il prodotto di Pioli, che dopo tanti altri ha rimesso anche lui in condizione di essere utile, certo, a questo, certo, progetto, verissimo. Perché vero, Banega è stato molto deludente nella prima metà della stagione. Io continuo a ritenere che l'Inter sia ancora in corsa in realtà per la Champions, e attenzione anche questa sera a Palermo-Roma. È vero che noi ci siamo abituati che le grandi vincono sempre e le piccole perdono sempre, però facevo notare prima in redazione a Carlo Genta, l'Empoli che ha fatto un punto nelle ultime sette partite è in frenata totale. Se al Palermo riesce di vincere una partita, se al Palermo riesce di vincere una partita, è ancora incredibilmente in corsa per salvarsi. Palermo col nuovo presidente, insomma. Ci sono tante ragioni, anche ambientali. Alessandro conosce bene cosa succede a Roma, intorno alla Roma. Lo vediamo. Insomma, non è stata una vigilia facile questa per Spalletti. Sì, sì. No, infatti, no, è chiaro che insomma le speranze per l'Inter ci sono ancora, questo è evidente, è molto difficile, pensiamo un po', l'abbiamo scritto, l'avete detto tutti, ma il cammino che ha fatto l'Inter Spalletti è poco uscita, che ha recuperato. Alessandro, Spalletti è in uscita o è già andato via? Perché no, senti, da quello che risulta a noi, l'abbiamo scritto anche l'altro giorno, insomma ci sarebbe già un'intesa, via, non un accordo ma un'intesa, e quindi con la Juventus, sì. Però insomma le situazioni, come sapete, sono fluide, del resto non ci si stupisce. Profumo d'intesa, quindi profumo d'intesa, e quindi chissà se anche questo non può minare. Però non lo so, però è difficile. La Roma, tra Roma e Palermo mi sembra che ci sia un divario sufficiente per non so se ipotizzare la sorpresa di cui. Però insomma. Sam, qui a vedere. Mi date prima di salutarvi un voto rapido a Gasperini, visto che tanti ce lo stanno chiedendo, ci stanno anche scrivendo. Gasperini oggi ne prende 7 perché pensa di venire a San Siro finalmente a poter dare una lezione. Certo che sei veramente cattivo, Giovanni. Io leggo, datemi un voto, a Gasperini. Ma è ingiusto. Vabbè, ad Gasperini è chiaro che per la partita di oggi che gli devi dare? Devi dare 4, ma insomma, però non è un voto. Cioè, voglio dire, bisogna sempre distinguere la singola partita chiaramente dal lavoro complessivo che sta facendo. Io ritengo che lui stia facendo un grande lavoro. Poi la partita di oggi l'ha sbagliata, che vi dobbiamo dire? L'aveva impostata alla sua maniera, i duelli, la corsa, ha fatto un buon quarto d'ora, magari trova il rigore, poi naturalmente lo diciamo sempre, il calcio cambia in un secondo e alla fine se ne va con un 4 e con i fischi. Direi che è un gioco delle parti, insomma è la natura del gioco, credo che anche Gasp lo sappia, insomma, ci ha provato, viva Dio. E poi c'era quell'episodio che raccontava Dario all'inizio. Vi saluto, c'è Maurizio Sarri, microfoni di Premium, quindi ringrazio e saluto Alessandro Pasini, il nostro Dario Ricci. Andiamo a parlare di Napoli-Crotone, sentiamo Sarri. La squadra ha fatto una buona partita, una partita seria, una partita da squadra matura, e sono contento perché non era semplice oggi fare una buona prestazione al di là del risultato, perché la prestazione è stata di buon livello. In attesa del risultato della Roma siete secondi, è quello l'obiettivo? Tornare in Champions dalla porta principale, tornare a vivere quel sogno che si è bruscamente interrotto con Real? L'obiettivo deve essere quello, partita per partita, di ottenere il massimo, poi il resto deve venire come logica conseguenza. La nostra è una squadra in campionato, sta facendo benissimo, e nelle ultime 14 partite mi sembra abbiamo fatto 35-36 punti, quindi stiamo viaggiando a una media di 2.40, 2.50 a partita. Abbiamo solamente un punto in meno dell'anno scorso, e visto che dall'anno scorso abbiamo perso un giocatore che faceva più di un gol a partita, abbiamo perso Milik, che a differenza dell'anno scorso quest'anno ci abbiamo partite di Champions molto molto dispendiose dal punto di vista emotivo. E avere solo un punto meno rispetto all'anno scorso vuol dire che la squadra non solo si sta confermando, ma secondo me sta crescendo. Studio. Hai capito, sì. Sarri che mette il cappello sulla stagione del Napoli? Sì, secondo me bisognerebbe bisognerebbe aggiungere anche una cosa: il campionato è diverso rispetto a quello dell'anno scorso, perché per le ragioni che abbiamo spiegato mille volte, ci sono tre squadre già retrocesse dal pronti via. Si è ridotto tutto ad un duello tra grandi squadre, tutte le altre le vinci, quindi è un campionato molto strano e sui generis, quindi questo del punto in più, punto in meno, mi sembra un discorso che andrebbe quantomeno relativizzato. Sì, però l'idea che abbia ricostruito il Napoli pur senza Higuaín, pur avendo perso subito Milik, non sto togliendo credo nulla, che faccia cronaca. Allora, ci sono Maurizio e Filippo. Maurizio, buonasera. Vai. Allora, io sono un tifoso interista. Odio Gasperini. Diceva... Vabbè, ma Gasperini comunque non ha avuto... Non io, tu. No, ma io non odio nei confronti di nessuno, diciamo che probabilmente fosse... Hai ragione, destinato... la parola odio va bandita dal linguaggio sportivo. Esatto. Sono stato stupido io a utilizzarla, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori. Allora, no, io volevo dire questo, indipendentemente dal discorso che si faceva prima su Conte, per carità, sulla sicurezza di questo allenatore, perché comunque sta dimostrando e ha dimostrato, insomma, voglio dire, tutto quello che sta facendo, però io credo che comunque un plauso a Pioli bisogna comunque darlo. E io, se fossi alla società, comunque con dei correttivi praticamente terrei Pioli, anche perché credo che forse l'errore che si può contestare a lui e probabilmente di aver sbagliato comunque la partita contro la Roma, vabbè, quella con la Juventus mettiamoci una pietra sopra, perché voglio dire, quella è a parte, lasciamo stare, però credo che comunque, voglio dire, meriterebbe comunque comunque vada questa stagione comunque. Allora, ripeto, devi lottare per lo scudetto, ti comprano chi vuoi, prendi Conte o ti ma l'idea di prendersi il migliore è evidentemente un'idea che può essere affascinante, però alle volte se rompi un equilibrio che si è creato non è detto che tu ottenga un risultato migliore. Sì, Filippo, no, io sto semplicemente chiedendo. Filippo? Sì, pronto. Eccoci. Buonasera, un tifoso interista. Allora, intanto rispondo alla domanda su Gasperini. Lasciamo perdere la questione dell'odio, eccetera. No, odio è una parola che non esiste nel linguaggio sportivo, sì, e io chiedo scusa a tutti. No, sono d'accordissimo, perdonami. Non dovevo neanche citarla. Allora, Gasperini dopo il terzo gol non se l'è filato più nessuno. È vero che ci sono stati dei cori. Credo che si debbano imputare al fatto che lui, quando gli è riuscito, dopo essere andato via dall'Inter, essersi sentito trattato male, quando gli è riuscito di vincere, credo una volta all'ultimo minuto, credo fosse a Genova, lui ha infierito, cioè è lui che ha dimostrato il risentimento e ha continuato sempre poi nelle interviste a farlo trasparire, quindi questo poi viene colto dal tifoso e secondo me è evidente che c'è un feeling che non è mai nato, io credo, per responsabilità condivisa, ma anche umanamente comprensibile. La grande chance della tua carriera, ti cacciano dopo quante giornate? Tre giornate. Sì, un punto in tre giornate all'Inter non è normale, cioè, all'Inter come in qualsiasi altra grande squadra. No, ma sono d'accordo, guarda come è partito, però chi è partito malissimo quest'anno? L'Atalanta, guarda come è partita, sì, l'Atalanta. L'Atalanta guarda, non è un no, grande, ho capito, sta facendo un grande campionato, però, ma può permettersi anche di partire onestamente male. Ti chiamano all'Inter, ti cacciano, era grande occasione della tua carriera, prima grande squadra Gallini, ti cacciano dopo tre partite, concedetegli qualche battuta contro l'Inter, dai, cioè, almeno dal mio punto di vista, e poi pensatela come volete. 800 24 00 24, ci fermiamo, quando torniamo parliamo della Roma e della presupposta crisi della Roma, che questa sera ore 20:45 gioca a Palermo per recuperare Massa il secondo quando posto. Parliamo tutti convocati. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele d'arenetta deliziose, muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Convocati. Sulla questione Pallotta, prima una radio a New York ha detto: contro il Napoli non avevo buone sensazioni per la formazione, e ha aggiunto Roma Radio: non mi permetterei mai di criticarlo pubblicamente. Voleva difendere i giocatori da quello che è la situazione che stiamo attraversando, mettendo un po' in discussione anche quello che è l'operato dell'allenatore. Non lo so se la sua intenzione era questa qui, però da un punto di vista mio non fa una piega, perché sono io quello che ha la responsabilità unica, assoluta, di quello che succede dentro la squadra. The Chev got stuck in the Ford, got stuck, got the Chevron stuck when the Dodge showed up. But the Dodge got stuck in the tractor rut, which eventually pulled out the Ford with some difficulty. Siamo finiti con una ruota nel fango e io sono l'unico responsabile, perché sono io che ho il volante in mano della macchina. Quello che diventa fondamentale è avere sotto il cofano i cavalli giusti per riuscire con questa ruota dal fango. A volte tu ne riesci subito, a volte tu rimani un po' impantanato. Ora siamo rimasti un po' impantanati. Questo Spalletti ieri la vigilia di Palermo Roma, carissimo Pier, ciao. Ciao Pardo. Bene, bene, non c'è male. Abbiamo visto Gasperini, poi magari recuperiamo un taglio di voce di Gasperini. Parlare. Ma secondo te, posso 7-1 preso? Me lo fai chiedere anche a Pierluigi? Secondo te ha un senso l'astio dei tifosi interisti nei confronti di Gasperini, Pierluigi? Ma nel calcio ha tutto senso, dai. Non fare. Dici scudo crociato, dai, ti prego. No. Esatto, è dirti che non ha senso, invece c'ha molto più palle, dirti che secondo me è irrazionale, è illogico, cioè, quella di Gasperini lì è stata una storia talmente breve, talmente... Appunto, però è la storia della tua vita, la squadra più importante... Non ti sto dicendo che sia giusto razionalmente e che ci siano motivi fondati per volersi male, però è il calcio, ci sono delle storie che non decollano e quindi ti rimane un senso di inimicizia sicuramente illogico, sicuramente immeritato da una parte e dall'altra, però da parte di Gasperini, se batti l'Inter che ti ha cacciato dopo 3 partite, era la prima grande squadra della tua vita, puoi anche toglierti qualche sasso dalle scarpe, puoi anche essere un po' sgarbato, questo sto dicendo, ma da parte dei tifosi interisti nei confronti di Gasperini che c'è questo astio. Io credo sinceramente che Gasperini, al di là degli spottò che abbiamo sentito, insomma, sia un motivo, una ragione di vita, cioè rovinare la vita a Gasperini sia una ragione di vita dei tifosi all'Inter. No, sicuramente io non lo capisco, no. Però un po' è così. Sicuramente non gli è stato sicuramente padre, oggi si sono divertiti 2 volte in più, perché dall'altra parte c'era Gasperini. Questo pare di aver capito dal racconto di Dario Ricci da San Siro che abbiamo fatto prima. Però questo è il calcio, ribadisco, è parte delle ragioni razionali, per cui non è che ci sia una logica dietro, però non mi sorprende e non mi sembra neanche un po' una brutta cosa, nel senso che fa parte delle situazioni del calcio, per cui magari rimane, sicuramente non è che Gasperini sia non penso che razionalmente di così all'Inter lo consideri un allenatore scarso o una brutta persona, mancherebbe altro, però siccome non si sono trovati particolarmente bene e lo stesso Gasperini sicuramente non ha ricordi piacevoli di quel periodo molto breve, secondo me fa parte del folklore e del colore del calcio. Non ci trovo niente di tremendo. Secondo te la Roma ha da temere quest'Inter che abbiamo visto oggi? Ma secondo me la Roma ha un buon vantaggio, quindi deve temere soprattutto se stessa e questa famosa ruota. Il vero paradosso è che la Roma adesso in questo momento sembra lontana da tutto, ovviamente, però in realtà c'è un calendario molto, molto morbido nelle prossime partite: a Palermo fuori casa, poi a Empoli e Sassuolo in casa. Meglio Sassuolo, Empoli in casa, poi decidi a Bologna fuori. Insomma, è una situazione tale che addirittura se la Juve avesse fatto qualche passo falso, poteva secondo me non riaprire il campionato ma riavvicinarsi. L'altra sera sicuramente stavano pensando un eventuale meno 6 se la Juve non avesse sbloccato. Poi c'è la sbloccata e oggi la Roma deve pensare soprattutto al secondo posto e alla corsa Champions. Però insomma, nelle prossime partite, se la Roma riprende un minimo di quadratura, secondo me diventa a posto. Ma tu ti sei dato una spiegazione di quello che sta succedendo? Cioè, le parole di Pallotta di ieri, poi per carità le hai in parte rettificate, spiegate, precisate, però mi parevano una critica abbastanza chiara a come viene condotta dal punto di vista tecnico la squadra, quindi a Spalletti, a sta in America, non c'è più da sei mesi, è un assenteista, l'abbiamo detto l'altro giorno. Guarda, De Laurentiis è focoso e sbaglia qualche volta a parlare a caso dopo le partite. E Pallotta sbaglia secondo me perché parla una volta ogni quattro mesi ed è americano per tutte le cose, così come si fosse al bar. Non credo che ci sia gli sta quale grande strategia dietro. Lui ogni tanto parla e ricordate la famosa frase su Totti durante una conferenza che provocò. Gli manca un po', secondo me, di percezione del... Sì, cioè del fatto che tutto quello che dice poi può mettere in difficoltà, può creare dei problemi. La vera domanda è, partendo dal presupposto, credo indiscutibile, che la squadra è impantanata e che è stanca, se la colpa sia di Spalletti che ha gestito male questi uomini o della società che non ha costruito delle alternative tali per poterli votare in maniera adeguata. C'è sempre un po' il sospetto che ci sia un rimpallo di responsabilità, tra l'altro qualcuno sottolineava anche, sentito prima Sarri, ecco perché Sarri poi fa arrabbiare De Laurentiis quando parla, gli sottolinea un punto in meno senza Higuain e in un certo senso mette il cappello su quella che è quella che è stata la sua bravura anche nel ricostruire il Napoli. Spalletti è un altro allenatore che in maniera dialettica Pier spesso va in contrapposizione con Pier, ha ragione Pallotta. Sarri nel mettere il cappello, nel mettere i puntini sulle i, però c'è da sottolineare, e l'ho fatto prima, che è anche un campionato diverso rispetto a quello dell'anno passato per le ragioni che abbiamo già spiegato un miliardo di volte. Sì, io spero che i conti si facciano alla fine, scusate, questa è una bella banalità, però è così, insomma, nel senso che la stagione da Roma fino a un giorno fa è stata una stagione di altissimo profilo, oggi rischia di essere un qualcosa di veramente incompiuto. Il Napoli per me come rosa è la seconda forza del campionato, come quantità di giocatori, e ce ne rendiamo conto in questo periodo quanto deve faticare in più Spalletti per le sensazioni di quanta possibilità invece di turnover in più abbia il Napoli. E come livello tecnico secondo me Roma e Napoli si equivalgono, come livello di profondità della Roma, che sappiamo nelle 38 partite può essere decisivo, il Napoli è qualcosa di più. Sì, però non avete risposto se l'Inter è ancora in corsa o no, vista per il del terzo talento posto, la Roma è qualcosa, è qualcosa, quindi per te l'Inter non è in corsa, la Roma deve solo non posso dire che non sia No, dopo averla vista oggi vedendo la classifica sicuramente sì, però se, ripeto, la Roma secondo me adesso ha un buon calendario, se si dà una sistemata, cosa che mi sembra abbastanza facile viste le prossime avversarie, per riprendere un buon cammino, secondo me allo scontro diretto di vantaggio sarebbe già stasera con diciamo che punti. Pierluigi, sei d'accordo per tagliare la testa al toro, diciamo che Roma e Napoli hanno il loro destino nelle proprie mani mentre l'Inter no? Beh, assolutamente questo è la parissiano, l'Inter sta facendo cose ottime, sicuramente oggi è una vittoria che vale tanto in termini di crescita, di entusiasmo, una squadra veramente rifiorita, importantissima per Icardi, importantissima per Banega, ci sono mille storie da questa partita che sono molto molto positive, però la distanza c'è, quindi semmai la partita di oggi evoca magari la testa dei distanti dell'Inter, la prima domanda perché non abbiamo capito prima. Ancora, evoca quella cosa là che ho detto prima, cioè che mister Zang dovrebbe chiedere i danni a chi gli ha fatto scegliere De Boer inizio anno. Io la penso così da agosto, cioè, so che tu la pensi diversamente. No, ma no, io ti dico, vedremo a maggio poi. Non è che faccio, sono intellettualmente onesto e ti dico che quando in quelle settimane lì ti dicevo che non mi sembrava illogico mollare De Boer, ma mi sembrava illogico mollare De Boer per un motivo perché l'avevi preso. Lo dico perché era una cosa irrazionale, e poi francamente adesso passa di nuovo, io forse non l'avevo preso, ma forse comunque per un allenatore del genere in estate in piena preparazione per fare una rivoluzione, insomma. La verità è che l'Inter vale più di quel posto dove è in questo momento, poi vedremo cosa sarà la fine. Abbiamo qui De Boer, ne approfittiamo per una cosa importante, gli facciamo lanciare il traffico. Sì, io filosofia di gioco, come si dice? Traffico, yeah. Tutti convocati. Tutti convocati. Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta. Tutti convocati. Abbiamo dominato, allora siamo contenti e si va avanti. Secondo posto in attesa ovviamente questa sera. Questo di Palermo Amsic, Marek Amsic dopo Napoli Crotone. Tra il secondo posto, perché dopo l'eliminazione della Champions, Marek, avete voglia di ritornarci dalla porta principale? Sicuramente sì, come hai detto tu, volevamo arrivarci dalla porta principale, sarebbe importante arrivarci da secondi e questo è l'obiettivo e lo vogliamo raggiungere. Oggi abbiamo fatto il primo passo e pensiamo a Empoli. Non solo il campionato, l'Empoli, la pausa, poi doppia sfida con la Juventus in campionato e in Coppa Italia e la voglia della remontata questa volta che volete fare per centrare la finale di Coppa Italia. Sicuramente sì, anche questi sono degli obiettivi e sicuramente sarà una settimana di fuoco per noi, anche per tifosi. Allora, però per prima veramente pensiamo a Empoli perché è quella più importante. Sarà una settimana da vivere con l'elmetto, quella del tentativo di remontata del Napoli con la Juventus, ma dopo il GR delle 18, carissimo Pierre, ne parliamo, parliamo della polveriera oggi ancora in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport. Devo andare a spostare la macchina dopo la dopo Juventus-Milan. Rodolfo e Massimo, cominciamo da Rodolfo d'Arezzo. Rodolfo. Sì, ciao, buonasera a tutti. Ciao. Volevo semplicemente porvi uno spunto di riflessione. A mio parere con Banega siete stati un pochino troppo tranciante. Cioè Banega due partite da titolare, Banega ora in forma, l'Inter fa 12 gol, io non so quante squadre di Serie A possono vantare il ruolo in avancia nelle ultime due partite. 5 Cagliari, che non mi sembra una difesaccia, e oggi a Bergamo con l'Atalanta, che è la nostra diretta concorrente. Su Pioli, se non si vincono gli scontri diretti non si va in Champions. Perdonami Rodolfo, in che senso tranchant su Banega? Cioè noi di Banega abbiamo detto... L'avete rimesso sul mercato, avete no, abbiamo detto... Se avessimo la lista dei desideri, Banega lo venderemo. Un Banega così io me lo terrei, una divisione. Sì, però tutti non potrà tenere l'Inter, questo insomma è stato scritto anche in questa settimana e alla fine qualcuno dovrà andare via. Però prego Rodolfo. Prego, ti volevo semplicemente dire, le ultime due partite 12 gol con 90 milioni di euro in panchina, se qualcuno va via forse sono acquisti sbagliati. Ancora non si è capito che Joao Mario che ruolo è, tantomeno si è capito Gabriel Barbosa che ci sta a fare una squadra che vuole gente matura, non lo fa giocare Pioli, abbiamo 90 milioni di euro in panchina, tutto il grande mercato in panchina. Questo semmai uno dei punti, al di là di dare le zappe su De Boer o su altri discorsi. L'Inter quest'anno ha vissuto delle situazioni societarie al limite del ridicolo, le ha tamponate, ha avuto fortuna di prendere Pioli, ma Pioli deve capire che se vogliamo vincere, se lui vuole rimanere una grande squadra, deve iniziare a non cambiare le squadre quando c'era la Roma, per esempio, che ha fatto una formazione inguardabile. Su questo Conte è molto è uno squalo, non perde uno scontro diretto nemmeno a pagare l'oro. Aspetta Pier, vorrei sapere cosa ne pensi tu, perché il tema l'ha aperto Alessandro Pasini prima in collegamento da San Siro e io devo dire che trovo l'intervento di Rodolfo, tifoso dell'Inter, evidentemente che oggi sta festeggiando, perché non si può non festeggiare un 7-1, però lucido in prospettiva e che comunque alimenta un dibattito. Ah sì, il vero paradosso è che meglio all'Inter, forse peggio è per Pioli, adesso sto scherzando, nel senso che non è così ovviamente, deve fare il massimo possibile, però un Inter che dovesse andare in Champions League può venire alla società di investire a quel punto su un allenatore di profilo altissimo. E lui è un allenatore di profilo alto, sta dimostrando delle cose molto importanti, in ogni caso comunque andrà a finire questa stagione, io penso che l'immagine e l'appeal sul mercato di Pioli crescerà. Bravo Pierluigi, bravo, perfetto, però se tu per usare l'esempio sciocco che ho usato prima, se tu sei la moglie dello sceicco del magnate russo con la carta di credito illimitata a fare shopping, ti tieni Pioli o ti prendi Conte? Il dubbio certo, infatti è questo il punto è questo, e quindi paradossalmente una faccio per dirti ipotesi non probabilissima ma nemmeno impossibile, potrebbe far aumentare la voglia di cambiare, di andarsi a prendere un profilo ancora più alto. Detto questo, Pioli secondo me sta facendo bene, si può discutere sulla votazione del maledetto o benedetto a seconda dei punti di vista Inter-Roma, però insomma francamente io non mi sento di ricordargli molto. I numeri sono straordinari, mi sembra che... Allora, i numeri te li do io. Pioli ha fatto 37 punti in 16 giornate, media 2,31. Ottimo, ottimo. Quasi da scudetto. Vi devo fermare perché c'è il GR. Massimo da Reggio Emilia, lo riprendiamo subito dopo il GR. E quando parleremo anche di Massa e della tempesta. Vado a spostare la macchina, torno domani. Sera, sono stato tutta la sera un mio amico nuovo, si chiama Ciro, può darsi si sia tre squadre di pazzi o può darsi siano successi episodi discutibili, che ti devo dire, non faccio il presidente degli arbitri, lui continua a dirci che noi abbiamo gli arbitri più forti del mondo, quindi crediamoci. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su RDS.it. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour, Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Ricominciamo, tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Nick Steiner, deviazione, attenzione, forza con la mano, calcio di rigore incredibile! Viene trascinato dall'assistente Massa, attenzione, i 4 minuti erano scaduti da 25 secondi al momento del fischio. Parte Dybala, sinistro secco, rete! Esplode lo Juventus Stadium! Scusa per parapiglia finale, ma c'era molto nervosismo e Massa si è presa la responsabilità di dare calcio di rigore. Abbiamo visto dalle immagini molto distante. L'ha deciso lui, ha visto lui i doveri, ma non ha detto che ha dato suggerimenti. Questo è quello che perché Chiesa mi piaceva capire. Mi piace non parlare degli arbitri, anche se oggi è difficile. Quando succedono queste cose contro noi, vorrei vedere se qualcuno va a dire il rigore che ha fatto Zapata nel primo tempo. C'è un contatto Zapata con Dybala che meritava la massima attenzione e Massa non ha fischiato assolutamente. Non lo voglio neanche vedere, non c'è una compensazione, non ci deve essere, non ci avete sempre insegnato così, quindi voglio credere benissimo. Questo è un rigore al quinto minuto, se non sbaglio, potenziale, ottavo minuto. L'altro è un calcio di rigore al 95esimo, 94 e 21 secondi, c'è un peso un po' diverso. Che devo dire? Quello che vuoi tu. No, non è, io non commento mai, non ho mai commentato nel bene e nel male, credo che anche qualche episodio nel male abbia passato, Sì, certo. Ci sono delle situazioni dove degli episodi vanno da una parte, episodi vanno dall'altra. Quando gli episodi ci vanno a favore, si dice niente. Quando gli episodi ci vanno contro, bordello. Io intanto risaluto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ci sei? Perfetto. Sì, poi rendo onore all'oracolo di tutti i convocati, al secolo Franco Ordine. Ciao Franco. Eccomi qua. Che ci ha lasciato venerdì dicendo... Ma pensavo che fosse il vincitore della schedina. No, il vincitore della schedina dopo. Lo diamo alle 18.30 il vincitore della schedina. Già un paio d'ore. Sì, ma lo diciamo alle 18.30. Carca miseria. Franco. Franco Ordine, scusa, oracolo del venerdì, oracolo di tutti i convocati che venerdì ci ha salutato dicendo... sono sicuro che Massa farà un errore. E io, ora bisogna discutere su quale. Se Massa fa un errore, se Massa fa un errore domenica sono malato, invece per fortuna sto bene, però mi stanno chiamando, devo andare a spostare la macchina. Sì, arrivo, sono i vigili. No, sì, arrivo subito, torno domani. Va bene. A proposito, non c'è notizia di Pagnolada a San Siro dopo il rigore non dato all'Atalanta sullo 0-0, mi sembra. No, neanche di proteste del Napoli per il mezzo tuffo di Hamsik. Neanche di proteste per il Napoli dopo il mezzo tuffo di Hamsik. Allora, Franco Ordine e anche Massimo Zampini, che abbiamo riconvocato come promesso venerdì, per chiudere il loro duello. Franco, Massimo, ciao. Ciao, ciao. Franco? No, io guardo che duelli con Zampini non ne ho da fare. No. No, no, è lui che ha dei problemi, credo, con un po' di tifosi milanisti, ma io con lui proprio duelli non ne ho da fare, non è il mio competitor. Ma neanche Franco il mio, ma neanche i tifosi milanisti il mio competitor. Beh, allora andiamo a casa. Se siete così, chiudiamo il collegamento, vi salutiamo e vi lasciamo. Ha fatto una profezia, ha detto sbaglierà due o tre cose, e diciamo una l'ha sbagliata di certo nel primo tempo, sull'altra si discute ancora, però aveva ragione, nel primo tempo hanno negato un rigore netto, questo è vero, era un po' condizionato. Sì, e nel finale è andato un rigore che non c'era. Ma, insomma, non c'era, si può discutere. Secondo me non si è capito. Secondo me non c'era, io voglio dare 10 in pagella a Montella per come ha parlato, poi mi sto zitto. Scusate. Quindi in sostanza Zampini sta dicendo che l'arbitro Massa ha sbagliato due volte e quindi sta perfettamente, lucida il mio pronostico di venerdì pomeriggio. Esatto. Ma difatti sei il trionfatore di questo fine settimana. Esatto. Poi sul rigore del finale, che è diciamo poi l'evento decisivo, bisognerà poi mettersi d'accordo una volta per tutte per stabilire che non è che lo dice Carlo per me non c'era rigore, no, non è che non c'era rigore per Carlo o non c'era rigore per Cesari o non c'era rigore per Casarin o non c'era rigore per il Padre Eterno, per San Pietro, per San Giuseppe, per San Giovanni, non c'era proprio il rigore non c'è. Al braccio perché? A 70 centimetri dal corpo, dai su, facciamo i bravi. Perché ricordatevi una cosa, io sono cresciuto professionalmente alla scuola di Casarin e di Cesari, e io frequentando i loro raduni mi ha sempre detto Casarin: Franco, ricordati una cosa fondamentale, se il pallone va verso il braccio non è mai rigore, se il braccio va verso il pallone è calcio. Bravo, è sempre rigore. Sono d'accordissimo, io questi rigori non li darei mai, mai. Però ogni tanto vengono dati. Zampini, fammi finire, poi dopo tiri fuori il gol di Turone. Io dico soltanto una cosa, purtroppo ho sentito ex calciatori i quali hanno sostenuto dopo la partita e dice sì, in effetti questa non c'è la volontarietà, ma purtroppo il regolamento è cambiato. Attenzione, il regolamento non è cambiato, l'architrave del rigore su fallo di mano e resta la volontarietà. Quelli che sono stati aggiunti due parametri che corrispondono a due domande, e cioè l'intervento di De Sciglio è congruo? La risposta è sì. Secondo interrogativo, l'intervento di De Sciglio aumenta il volume? La risposta è no. Beh, insomma, Franco, tu vuoi stravincere, perdonami. Aspetta che c'è anche più Luigi Pardo, Pier. Che starà divertendo come un matto in attesa di Tiki Taka di domani. Vai. Io penso che sicuramente, se guardiamo la stagione, la Juve non ha sicuramente un bilancio favorevole. Cioè non vedo nessun disegno e nessun vento, anzi. Sono state le situazioni quest'anno, nelle poche partite che la Juve ha perso, di situazioni arbitrali molto discutibili, a Firenze, ovviamente a Milano è andata. Quindi io non parto da questo presupposto per dirti che scusa, non ci vedo... Pierluigi, ma cosa c'entra? Ma chi ha mai detto aspetta, no, io non aspetto, perché questa è una sorta di escusatio non petita. Ma Franco, però perdonami, esiste anche chi la ritiene diversamente, cioè che il rigore dato alla Juve non sia uno scandalo, proprio... Posso parlare a chi lo fammi sentire, Franco, fammi sentire Pardo, poi gli dici quello che vuoi. stavo facendo una premessa, a questo punto faccio la seconda così Ordine si incazza ancora di più. Nella stessa partita certamente c'è un episodio che è il calcio di rigore il primo tempo, detto questo per me il rigore alla fine non c'è, o comunque è un rigore di quelli veramente, ma neanche mezzo mezzo, al 94esimo e 21 secondi, oggettivamente capisco la delusione del Milan. Aspettate, però, che ecco, prima del traffico, questo, sì. Siccome poi il ragionamento è la Juve ruba, ecco, io credo in questo che molti dicono, no? Io credo che in questo campionato, numeri alla mano, il bilancio della Juve forse addirittura è un bilancio di una squadra che ha avuto più torti che favori, o comunque non vedo nessun vento in nessun modo. Certo, un rigore del genere in una partita che comunque la Juve non sta vincendo, ma lascia perdere la Roma, adesso è in grande difficoltà e quindi non dà la sensazione di essere una squadra capace di poter tornare, però insomma, se la Juve avesse pareggiato l'altro giorno, adesso la Roma ha un calendario facile, c'è Napoli-Juve in arrivo, e tu dici sarebbe stata più aperta di quello che può sembrare, si poteva riaprire, quindi il rigore di Massa ha chiuso il campionato, questa è un po' la sintesi. Penso di sì, però ripeto, non c'è un vento, non vedo nessuna tendenza e nessuna particolare fortuna o sfortuna quest'anno. L'ho commentato Udinese-Juve la settimana scorsa, che è una partita dove la Juve sicuramente poteva avere almeno una situazione di calcio di rigore nel primo tempo, insomma. Sì. Così come è vero che nelle ultime settimane il Milan non è stato fortunatissimo. Abbiamo il traffico, siamo in ritardo di un paio di minuti, poi torniamo subito e andiamo avanti. Io lo dico, c'è un errore indiscutibile nella partita di venerdì sera ed è il rigore non dato a Dybala. Sul resto si può discutere tutto a partire dall'ultima scelta, quella di Massa. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presento. Tutti convocati. Eccoci qua nella tempesta perfetta di venerdì sera, Pierluigi Pardo, Franco Ordine, Massimo Zampini. Massimo, io volevo capire. Al volo, intanto per me il rigore finale è discutibile, cioè nel senso, discutibile. Ho visto moviolisti che, allora io, un'altra premessa, io non amo questi rigori, non perché sia la Juve o meno, anzi li amo alla Juve, non sono di quelli spaventati che me li diano, ma sinceramente appunto la pallonata a due metri dalla mano, ammesso che per me il rigore dovrebbe essere una cosa molto più clamorosa. Ci ho detto, ampli il volume, sicuramente lo amplia, che sia volontario o no, se guardate io una serie di immagini di difensori milanisti nei tre minuti prima del rigore, tutti a mano dietro, su ogni cross della Juve, a mano dietro la schiena. Lui lo tiene largo così e si assume un rischio che c'è. Ma ci ho detto, io non farò mai a fare due ore di moviola su un braccio largo o meno. So che nel primo tempo, lo sappiamo tutti, c'era un rigore netto per la Juve, sappiamo l'andata com'è andata, sappiamo il Milan come ha reagito alla fine. Carlo diceva, Montella signore, sì, abbiamo capito cosa è successo negli spogliatoi e tutte le cose No, ma anche se non penso che Montella lo sapesse, ammesso che poi insomma non abbiamo la conferma. Io parlavo solo di Montella, non di quello che è successo negli spogliatoi. Neanche da quinta divisione, diciamolo e denunciamolo, perché sennò non si può dire neanche questo. Insomma, la frustrazione arriva a livelli tali da spaccare cose nello spogliatoio, scrivere, così ho letto almeno. Due sono le cose tecniche. La prima è che io sono inondato di immagini di rigori dati al Milan anche da Massa contro Frosinone ed altri, con la mano ancora al 90esimo passato, con la mano ancora più attaccata, dove nessuno ha detto nulla, non so Ordine al tempo cosa abbia detto. Aspetta che glielo chiediamo, perché poi abbiamo anche quell'altra cosa da dirimere fra voi due. Faccio notare a loro signori che Orsato ieri ha ammonito Viviano, portiere di una Sampdoria che sta andando benissimo e che era diffidato e salterà la partita con la Juventus. Franco, abbiamo qui Luciano Moggi, mi pare. Hai telefonato a Orsato, di la verità. Ma voi siete sempre barzellettari. No, hai telefonato sì o no? Io Orsato? Non ho telefonato niente, smettiamola con queste polemiche, Franco, gratuite. Io rappresento la parte bella del calcio. Hai telefonato a Orsato? Insomma. No. Di la verità. No. Giura. Sì. Guardami. Franco, come la mettiamo col rigore dato al Milan contro il Frosinone? Che è vero, è immagine che gira da ieri. Sì, ma io siccome non me lo ricordo, perché non credo di aver visto quella partita, non devo rispondere io, si rivolga a Pelegatti, si rivolga a Crudeli. Io ripeto ancora una volta, non sono il competitor di Ma non sei il competitor, stiamo ragionando intorno a quello che è successo. No, io faccio un altro mestiere rispetto al Zampini. io faccio il mestiere di quello che giudica e critica il lavoro dei giocatori e degli arbitri. E questo nel mio... Però il tema, Franco, è questo, e hai ragione, cioè... proprio per questo, e siccome segui il Milan, quel calcio di rigore lì può essere dato o non dato? Secondo me l'etichetta discutibile, ma dato o non dato, perché in passato è stato dato altre volte, simile. Vi sbagliate, se altre volte hanno dato in circostanze del genere, hanno sbagliato. Sì, ma il tema è, Franco, ed è secondo me il punto della discussione, è questo. La trave del rigore su mano è sempre uno soltanto, cioè la volontarietà. Il tema è, Franco, però questo, cioè un rigore che può non esserci, ma comunque discutibile, o comunque che in altre situazioni è stato dato, può creare tutto quello che si è creato dopo questo Juve-Milan? E dopo il rigore negato da Juve? Franco? Dopo il rigore negato da Juve? Cioè questo secondo me è il tema, capito? Perché per carità, ne abbiamo visti di dati e di non dati di rigori come quelli. Anche oggi a San Siro, sullo 0-0... Oggi era rigore, questo sì. Questo è un tema fuorviante, perché quello che è successo dopo la partita, innanzitutto vorrei dire a Zampini che nessuno di noi, né tantomeno lui, né tantomeno noi, né tantomeno il cronista dell'Ansa, è entrato nello spogliatoio e sa bene che cosa è successo. Ma che immagine c'è? No, voglio dire... Nel senso che non sappiamo bene che cosa è successo. C'è chi dice che sono state tolte soltanto il polistirolo degli scudetti. Questo a me non interessa, perché quello che dico io e che ho scritto stamattina sul giornale è che questa è una cosa che non è degna né della storia, né della tradizione, né della classe del Milan. Chiusa questa vicenda, perché d'accordo, è una roba sulla quale... molti devono avere il rostore sulle cotte. D'accordo, questa... siamo tutti d'accordo sul fatto che non si danneggia la proprietà altrui. No. Anche se tu metti nel come dice qualcuno, hanno messo anche gli scudetti che non hanno. Ma che te ne importa a te? Quella è casa sua. A casa sua metti qua, io a casa mia metto i quadri che dico io. Bravo. Posso mettere i quadri anche del dittatore cileno, tanto per dire. Quindi a casa mia decido io quali sono i quadri da mettere al muro. Quindi questo non giustifica assolutamente nulla. Tutti d'accordo, pardo compreso. La questione di fondo è che dice Capuano è sbagliata. Okay. Perché? Io trovo eccessiva la reazione per un rigore che magari non c'era, discutibile è l'etichetta esatta di quello che è successo. Non è eccessiva, perché? Ti spiego. Parliamone. Ti spiego, c'è una componente. Non è eccessiva perché in quel momento questo gruppo di ragazzi, per la maggior parte molto giovani, che sono stati maltrattati dai loro rendimenti e dai risultati degli ultimi anni, che vedono raggiungere un risultato che in qualche modo, visto che per 30 volte aveva vinto la Juve, poteva essere considerato una grande impresa, il fatto che siano stati, siano rimasti beffati al traguardo è una reazione che ci può stare. Poi, dopo, di una cosa credo che il Milan debba essere e i milanisti debbano essere riconoscenti a Massa e a Doveri. E poi su questo datemi 3 secondi che devo fare una domanda. Vai. A Massa, e cioè del fatto che quella conclusione ha fatto scatenare l'incazzatura di Donnarumma, il quale ha fatto un gesto e ha detto delle parole che credo abbiano chiuso definitivamente l'autostrada per Torino. Beh, questo aspettiamo, a Massa e a Doveri è la seguente: per quale motivo, finita la partita, dinanzi a Montella, che educatamente e con garbo chiede: per piacere, mi dite, io non l'ho vista dalla panchina, mi spiegate la dinamica del fallo che ha procurato il rigore e chi lo ha fischiato? E Massa, mentendo, sapendo di mentire, dice: no, non l'ha dato Doveri, l'ho dato io. Questo è gravissimo per un arbitro che dovrebbe avere dinanzi agli addetti ai lavori almeno il coraggio delle proprie azioni. Vorrei sentire cosa dicono Pardo e Zampini. Ma io ti ribadisco, per me le domande sono due. Il rigore c'era, è un rigore al 95esimo che ti aspetti che possa essere dato? Secondo me la risposta è molto più no che sì. C'è anche una componente di contesto, perché è chiaro che dal punto di vista del regolamento il primo minuto è uguale al 94esimo e 18 secondi, però è vero pure che in un rigore di questo tipo all'ultimo minuto non viene fischiato quasi mai e deve essere plateale. Quindi questo per me, sull'episodio io sto con ordine, sul non detto e su tutte le polemiche sto con, non è che sto con Zampini, sto con quelli che pensano che non ci sia nessun disegno e che nell'analisi dei dati di un'intera stagione, degli episodi di un'intera stagione, non ci sia sicuramente nessun vento favorevole che stia spingendo la Juve. Io non ho parlato di disegno. No, ma tu no. No, però ma siccome, io sostengo. Tu no, però. Tu no, però. A venerdì si parla di questo. Si parla di questo, no? È una destinazione sbagliata e rischiosa. Per me Massa sbaglia, e sbaglia sul rigore di Dybala, e sbaglia, e sono d'accordo con Montella che le cose non si compensano, nel senso che un conto che dai un rigore all'ottavo minuto, il Milan comunque poi è andato in svantaggio, comunque ha recuperato, è chiaro che un rigore al 94esimo e 18 secondi pesa, è un rigore che define il risultato di una partita, no? Molto più di un... Quindi, questo non ci sono assolutamente dubbi. Detto questo, ripeto, siccome l'Italia da venerdì sera si divide e il, diciamo, il tema sottostante è esiste un occhio di riguardo nei confronti della Juve, se io devo valutare questa stagione io questo occhio di riguardo non lo vedo. Certamente quell'episodio lì è un episodio pesante, ti ripeto, io un rigore cioè, non avrei mai dato perché, amici, magari non si tratta neanche di compensazione, secondo me prima di tutto perché non c'è . E perché poi se anche si può avere il sospetto che al 20-30% quel rigore ci sia, è abbastanza, è troppo alto il rischio di decidere la partita, no, condizionale. Aspettate perché siamo quasi alla pausa. Non è il vento, è che Massa era presente all'andata per quel famoso episodio di Piani. Se quindi si parla di compensazione. Ma difatti da venerdì lo diciamo. È stata sbagliata la designazione, ha ragione. Allora io comincio a salutare Franco Ordine, grazie ciao, Franco. Ciao Ciccio, grandissimo. Saluti. Ciao. Alla prossima. Ho ancora una domanda da fare per Massimo Zampini, che è questa. Cioè, giustamente Franco ha ricordato prima quel gesto di Donnarumma e le sue parole uscendo dal campo. Che non lo so io, che come sono state prese da uno juventino che immagina magari dal 2018 di avere Donnarumma in porta. No, io non penso che Donnarumma verrà alla Juve, ma al di là di quelle immagini che non mi interessano nulla, cioè Donnarumma bacia la maglia del Milan, fa quello che vuole. Dice anche qualcosina, Sì, sì, ma sempre il lavoro, vabbè, non c'è problema. Abbiamo visto gente dire di peggio e poi venire bravo in Milan. Io penso che non verrà. Capello Fabio. Non verrà per altri motivi. Ma io sono una cosa per chiudere, io sono d'accordo con Piera, a parte il rigore, ripeto, io lo ritengo discutibile, lui dice non c'è, ma comunque siamo lì, io non amo comunque quel genere di rigore, però il contesto capisco meno. Io ho letto anche il Moviolista della Gazzetta dire una cosa per me inspiegabile, dire tu se sei un arbitro esperto fischi a 94 anche se il regolamento dice che tu devi andare avanti e c'è un'espulsione. No, queste cose no, però, perché insomma, cioè se c'è un regolamento, noi dal 90esimo abbiamo giocato due minuti, in cui tra l'altro la Juve stava per fare tre gol, Sosa che esce in un minuto e mezzo dal campo ed espulso, tu mi devi dare il tempo di recuperare, e loro se c'è il rigore devi dare il rigore, ce lo fa male, però questo non sono d'accordo. Poi c'è il rigore prima, eccetera, eccetera, l'abbiamo detto, per me conta anche quello, però. Grazie no, Massimo. Sì, grazie Max. Sì, no, dico, anche io sono d'accordo, cioè non è che il regolamento se si deve andare avanti, si va avanti. Ecco. Credo che Massa, se avesse fischiato al 94esimo e 5 secondi, sarebbe preso meno col senno di poi, si sarebbe evitato una situazione oggettivamente molto complicata. Però ripeto, secondo me l'errore principale sta nel fatto di aver fischiato una cosa così grave su un episodio che secondo me non è rigore, cioè questo è l'elemento di sostanza. Io di rigori come quelli ne ho visti dati tanti e con polemiche infinitamente rigori inferiori. Allora, bene, adesso polemiche adesso inferiori, perché se lo dai sul 4-1 al 72esimo non se ne parla. No, ma anche decisivi, anche decisivi. Ecco, Pardu è indisciplinato. No, bene. Allora, riportiamo un po' di calma senza fare la polemica. Qua ho delle nuovissime piastrelle, nuovo Sofione. Come lo chiami? Ducino? Allora, perché avete letto che Mihajlovic è andato a vedere la partita e è andato via prima della fine. Adesso si era preso il finale. Adesso ho preso qua l'ingrosso che costa molto meno in Ikea, sgabelli nuovi. Ma per cosa? Per lo spogliatoio. Lampade. Non so, perché mi hanno telefonato, hanno detto devi comprare queste cose che costano di poco, ma c'è stato qualcosa, io sono andato via 10 minuti prima, mi sono perso qualche cosa in spogliatoio, è successo qualche cosa, c'è successo, c'era un po' di nervosismo, sì, ecco, mio amico dice, hanno comprato che anche gli scudetti, che hanno tolto gli scudetti, sembra sì, hanno fatto benissimo mio amico no, anche su questa cosa, sì. Non bisogna fare polemica, Pardo, tu fai sempre polemica. Mio amico dice che Bacca e Galliani in spogliatoio hanno espresso piccola perplessità su calcio di rigore. Pier. Ah. Piccola. Niente piccola, di qua. Piccola perplessità. Pena no, pena. Anche questo episodio qui, adesso, da un lato è elegante, secondo me, da parte della Juve, che non vengano, diciamo, diramate le immagini di questa devastazione o di questo danneggiamento. E dall'altro, però, è un elemento, è molto difficile, nel senso che noi siamo qua a parlare, sono d'accordo con quello che dicevo ordine prima. È veramente una situazione complicata, nel senso che è una cosa grave, ma di cui non abbiamo la certezza. È una cosa grave della quale non abbiamo la certezza e non sappiamo quanto grave, nettamente. Ma tu le vorresti per Tiki Taka, cioè tu uomo di televisione, no, da giornalista? No, da... ma io non le vorrei per Tiki Taka. No, no, ma semplicemente no, ma io vorrei capire di che cosa stiamo parlando. Noi sappiamo che c'è stata una indiscrezione giornalistica, sappiamo che informalmente sono arrivate delle conferme. Però nessuno ha smentito assolutamente in questi casi. Nemmeno il Milan, è chiaro che il fatto che non abbia smentito lascia pensare che sia così. Però, ti ripeto, giudichiamo, cioè, mentre noi sulla Viola giudichiamo una cosa che abbiamo visto, qui giudichiamo una cosa sicuramente grave, perché il danneggiamento di uno spogliatoio senza se, senza ma, è una cosa grave. Però non sappiamo di che cosa stiamo parlando, no? E quindi questo credo che sia... un elemento in un mondo del calcio come quello di oggi, nel quale comunque si vede tutto, poi magari ognuno rimane con la sua opinione, però abbiamo elementi oggettivi. Qui stiamo parlando essenzialmente di un mistero. È chiaro che il fatto che il Milan non abbia smentito, qualche pensiero ti fa venire. Allora io ti saluto, Pier. Non prima di aver detto che questa settimana ha vinto Pierluigi Pardo. Io avevo detto che sarebbe finita 7-5. Mi sa che finirà 7-5, ma per lui, dolore dipinto negli occhi. Siamo 6-4. Magari finisce 7-5. Finisce 8-5. Infierisce, bastardo. Infierisce. Comunque stiamo 6 a 4. Infierisce pure. Comunque, ti dico che secondo me è più probabile beccare Lazio-Torino 1 che Palermo-Roma 2. Secondo me tutte e due le romane vinceranno, ma delle due quella secondo me è più complicata. Se posso citare Pierluigi Pardo di una quarantina di minuti fa, ha detto: i conti si fanno alla fine. Ciao Piera, domani. Ciao. Anche questa settimana Capuano vince la prossima. Tutti convocati. Tutti convocati. Ci siamo, Nicola, dalla provincia di Pesaro Urbino. Grazie della convocazione, buonasera ragazzi. Volevo dire questo: io sono tifoso juventino, sono anche arbitro e volevo esprimermi sull'episodio del rigore. Secondo me dalle prime immagini sembrava nettamente inesistente il rigore, però poi da immagini riprese dietro la curva nord, quindi dalla versione di Doveri, era molto più evidente di quanto sembrasse. Sì, secondo me è più evidente che uno di quei parametri di cui parlava Franco Ordine, cioè il fatto di aver aumentato o meno il volume del corpo, effettivamente, insomma, De Sciglio non va proprio col braccio dietro la schiena. Questo effettivamente c'è una differenza di valutazione tra le due immagini. Prego, Nicola. Esattamente. Però quello che volevo dire, essendo io anche arbitro, è che la verità, si è anche detta in trasmissione, che la definizione di massa è completamente sbagliata, perché a tutti i corsi da arbitro che si fanno anche a livello provinciale e regionale, gli organi tecnici insegnano che nelle partite, nelle gare dove ci sono stati problemi con le squadre, è meglio per un po' di tempo chiedere di non essere designati per arbitrare quelle stesse squadre. Sì. E con massa la cosa è stata molto... Però posso dire una cosa? A Milano c'è stato quell'episodio, voglio dire, qualsiasi altro arbitro avrebbe fischiato al 94esimo. Sì, pare da alcune ricostruzioni che in realtà il gol annullato all'andata alla Juventus, ricostruito dai vertici arbitrali, non fosse responsabilità di massa come tutti hanno creduto, ma fosse in realtà un errore dell'assistente. Sì, posso dire, e quindi diciamo massa fosse semplicemente presente a livello. Però nostro ascoltatore faceva fatto davanti a massa Donnarumma e Company. Scusami, il nostro ascoltatore ha fatto l'arbitro ai corsi regionali, insegnano eccetera, qui siamo al massimo livello professionistico possibile. Io mi rifiuto di pensare che il designatore non abbia riflettuto su questa cosa e può essere addirittura interpretata come un atto di consapevolezza, di forza, no? Non possiamo anche interpretarla così. Sì, è sbagliato. Quasi una sfida. È andata a finire, noi ne parlavamo venerdì, Carlo. Designazione sbagliata, qualunque cosa succeda, come per dire, siamo talmente irreprensibili da mandare proprio massa a dirigere quella gara. Eh beh, evidentemente gli è andata male. Poi ripeto, sul rigore si può discutere. Io non sono d'accordo col fatto di chi dice è stato dato un rigore scandaloso. Scandaloso. Scandalosi sono altri rigori. Andrea da Torino, Andrea. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, io ho visto la partita. Allora, prima di tutto devo dire che la Juventus ha fatto una grandissima partita, io sono juventino, perché ha sempre attaccato, ha fatto 21 tiri porta, il Milan sinceramente era rubacchiato come valore in campo. Però io ho visto una cosa. Uno, che sono sincero, io ero molto scettico, un grande Donnarumma. Gli attaccanti della Juventus non proprio eccezionali, perché su 21 occasioni io ho visto, c'è stato per esempio Piazza un paio di volte. Sì, Piazza in questo momento la porta non la vedi, c'è poco da fare. Anche il campo non è che lo vedo tantissimo. E poi, nonostante abbiamo fatto 21 tiri in porta, abbiamo avuto qualche scricchiolio in difesa, e io questo mi sono un po' preoccupato, perché in 2-3 occasioni il Milan comunque, che sinceramente non ha fatto una gran partita, secondo me. Io ho sentito degli elogi a Montella, che è riuscito a arginare la Juve, ma non l'ha arginata, perché se non ci fosse stato Romero in porta, e se i nostri, io sono juventino, proprio ha fatto dei tiri certe volte che Piazza... Sì, io credo, Andrea, che il Milan non sia la squadra che ha giocato meglio a Torino contro la Juve. Credo ad esempio che l'Inter abbia giocato meglio a Torino contro la Juve, però oggettivamente è quella che è andata più vicino a portare via il risultato. Ma però la partita del Milan, sinceramente, ha fatto 20, sì. Ha fatto 21, io mai visto. Sì, però hai ragione, nei 20 minuti finali, prima poi dell'assalto, le occasioni di Higuain, in due o tre ripartenze la Juventus ha rischiato dietro. Cavolate della Juventus, e io lì che mi sono preoccupato, perché già il gol che ci siamo presi è stato un errore difensivo, e dopo c'è stato appunto in due o tre occasioni che hanno fatto degli errori veramente da mi sembrava quasi come quando ci siamo beccati il gol col Bayern, che non l'hanno buttata via. E sinceramente io mi preoccupo più perché Bonucci lo vedo un po' scricchiolare, e non capisco perché Rugani non sia titolare fisso, perché secondo me in questo momento Rugani... Io credo, Andrea, che possano essere anche un po' errori da eccesso di confidenza. Se tu stai facendo una partita proiettato costantemente nella metà campo avversaria, magari perdi di vista qualcosa dietro. Parliamo un po' del derby di ieri sera a Marassi. Orizzontale, rischia molto, la perde Genoa, Muriel punta la porta, Muriel il suo destro, non perdona, Luis Muriel, ancora, fa venire giù la Sud, Sampdoria in vantaggio. Non ci sono parole per descrivere quello che sto sentendo in questo momento. Sapevamo che se vinciamo oggi scrivevamo un pezzo della storia della Sampdoria, perché sono passati 60 anni prima che una squadra vincesse due volte il derby in un anno, e è un'emozione unica. Un gol andato, un gol da ritorno, l'ermetico te torno, questa è la verità. Per cui vediamo se facciamo un altro gol pure a Juve, così almeno sono tre e c'è un film che io ho fatto da ragazzino, ricomincio da te. Messaggino Preziosi glielo manda? Messaggino Preziosi sarà la favola, sarà in qualche posto meraviglioso, è un po' arrabbiato, però è un grande uomo. Senti, non posso dire niente, sennò viene in Lega me mena dopo. Pensava a Juventus, che dobbiamo fare un regalo ai romanisti, perché a Roma mi insultano tutti. Battere la Juve per me, come direbbe dalle parti mie, godo. 1959-60, la Dolce Vita è stata trasferita da Marco Giampaolo e i ragazzi della Sampdoria a Sampdoria! Vabbè, chiudiamo tutto, Corrado Tedeschi, ciao! Ciao, chiudiamo buonasera. Tutto e andiamo via, dai! Chiudiamo Baracca buonasera, e Burattini! Questo è Ferrero. Ce lo teniamo così com'è. No. È stata una bella cosa che non sia sceso in campo a fare il giro d'onore. Meno male. Ci ha risparmiato, ma l'abbiamo visto tante volte, abbiamo vaste immagini di repertorio. Devo dirti, Corrado, che dietro Gasperini, primo in classifica assoluto, a pari merito con Simone Inzaghi, Giampaolo è l'allenatore dell'anno nel rapporto qualità-prezzo. Sono sono d'accordissimo. Gianpaolo è un allenatore di quella razza talebana, per cui lui ha le sue idee, va avanti. Bravo. Con le sue idee, non le cambia mai. Qualche cambiamento l'ho visto recentemente, in meglio, però è uno che ha le sue idee, va avanti e sta vincendo lui, non c'è niente da dire, perché ieri, soprattutto nel secondo tempo, in una partita che comunque è sempre una partita ad altissimo rischio, si è vista una squadra vera e dall'altra parte così, una squadra assemblata alla meno peggio, perché questa è la caratteristica di Gianpaolo. Non perde mai il suo assetto, la squadra è così, è ordinata, compatta. Io a volte non sono neanche d'accordo su alcune cose, però ha ragione lui, e quindi sta facendo un'operazione straordinaria anche per la società, perché tutti i giovani che lui fa giocare, come dice lui, stanno prendendo valore. Quindi insomma c'è l'Atalanta, ma c'è anche la Sampdoria. Sì, è come Gasperini anche... in questo, è aziendalista nel senso buono del termine. Per una società è una ricchezza incredibile. Ma tu hai paura di perderlo in estate? Muriel? Non Muriel, Gianpaolo. No, Muriel va via secondo me. Gianpaolo pure, Chic anche, compresa la sua fidanzata che è bellissima. Tutti via allora. Ma è che è giusto così, voglio dire. È la politica che devono fare questi club, tra cui la Sampdoria, Corrado. È la politica che fa l'Atalanta. Io credo che Gianpaolo alla Sampdoria sia in una dimensione perfetta, ideale, alla fiducia della società totale, i tifosi lo adorano. Io un altro anno almeno lo farei, sinceramente. Forse. È rischioso. Ah sì, dici? Non lo so. Muriel temo che vada via. Chic temo che vada via, perché ieri quando è entrato Chic in un ambiente come quello del derby, che non è proprio un ambiente così amichevole, ha fatto delle cose strepitose. Questo è uno lungo, 1,90, ma con i piedi di uno alto 1,60, quindi è un fenomeno assoluto. Temo che questi vadano via. Ecco, il discorso in questi casi è, no, speriamo che ogni anno che cambia la Sampdoria prenda dei giovani sempre bravi. È quello il rischio. Finora li hanno azzeccati veramente quasi tutti, e difatti noi abbiamo un reparto scouting secondo me straordinario. È quello che non va cambiato, è quello che non deve andare via, quello è il patrimonio da conservare. Sì, perché io all'inizio dell'anno sfido qualsiasi tifoso della Sampdoria a dirmi che conosceva tutti i giovani che arrivavano. No, ma infatti io la Sampdoria non la vedevo bene per niente. L'ho dichiarato più volte, non la vedevo bene per niente. Poi bravissimo. Intanto con la vittoria di ieri ha fatto più punti Gianpaolo, e mancano 10 partite alla fine quasi della Sampdoria dell'anno scorso. Che anche questo è un dato, perché l'anno scorso tutti dimenticano, su quella panchina insieme a Zenga ha seduto un certo Montella. Certo, no, che però chi ha fatto l'affare tra voi e il Milan? Ma tutti e due, no. Tutti e due. Quella non era la sua dimensione, Montella, il Milan è la dimensione di Montella. Tra l'altro io credo anche, guarda, io sono uno abbastanza sospettoso, credo anche che Montella abbia lasciato la Fiorentina per venire a Sampdoria come in una sorta così di parcheggio per andare poi al Milan. Sì, sono d'accordo. Io la vedo così. Montella a Genova ha fatto non bene, purtroppo, perché io poi figuro lo stimo in un modo pazzesco, però non ha fatto bene. Gianpaolo è arrivato con la fama di uno che veniva esonerato, sempre. Quindi è arrivato, ha dovuto far ricredere tutti su questa cosa, perché sta facendo un bellissimo campionato. Questo paragone con la dolce vita è calzante, sì. Ma io guarda, Po' esagerato come Ferrero quando vince. Esagerato anche quando perde, Ferrero è esagerato, punto. Ti dico, Ferrero sta facendo un gran bel lavoro, lui e chi lo consiglia, sta facendo un bellissimo lavoro. Tutto ciò che riguarda le interviste dopo la partita, sinceramente, le lascerei perdere. No, perché le prendiamo come? A voi fa gioco. Io ho un po' di difficoltà, ti dico la verità. Sono ancora di quelli, sai, che si ricorda Mantovani, Garrone. Quindi questa sera segui con grande attenzione il debutto di Paul Baccaglini, nuovo presidente del Palermo. Tu capisci che presidenti ci sono adesso? se uno si prende la squadra, voglio dire, fa il presidente. Questa la voglio ancora vedere, la voglio ancora capire. Perché questo faceva le Iene, non so, non... non mi è chiaro, ci sono delle cose diventa, che non mi sono chiare. No, appunto, diventa, non lo so, come se Bonolis prendesse l'Inter, non lo so, sì. O Corrado Tedeschi la Sampdoria. O Corrado Tedeschi la Sampdoria, o magari è tutto un gigantesco scherzo delle Iene che ci hanno preso per il culo per magari un mese e poi viene salta fuori che è uno scherzone. Potrebbe essere quello. Potrebbe essere, beh, ma sarebbe qualcosa di meraviglioso. Abbiamo il traffico, io ringrazio ciao. Corrado Tedeschi, ciao, grazie. Grazie a voi, ciao. Grazie a voi. Grazie Corrado ciao. Tedeschi, grazie anche a ciao. Carlo Genta. Ci sentiamo domani alle 2. Domani alle 2, torniamo dopo ciao, il traffico. Ciao Andromercu, alias Moggica. Hai telefonato a Orsato? Non sono stato io, vergognati. L'hai chiamato. Tu devi vergognarti. E adesso cosa c'è? La pausa. L'hai allora chiamato. Andiamoci. Convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Tutti convocati. Intanto il Barcellona ha perso, il Barcellona della grande remontata ha perso 2-1 contro il Deportivo La Coruña. Quindi questa sera Real Madrid Betis. Il Real può scappare via più 2 con una partita in meno. Altri risultati di questo pomeriggio: Lione ha battuto 4-0 il Tolosa, Lione che è l'avversario della Roma negli ottavi di finale di Europa League. C'è anche il 2-1 del Liverpool sul Burnley, partita appena finita di Premier League, 2-1 del Liverpool. Parliamo di rugby. Saluto Andrea Bongiovanni, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea. Ciao, bentrovati, buonasera. Che ieri ha raccontato dell'ennesima sconfitta dell'Italia, 18esima credo nelle ultime 19 partite, no? Italia a fondo. Purtroppo è così, sì, la decima, l'undicesima addirittura consecutiva nel torneo, nel Sei Nazioni, e l'ultimo posto già garantito anche se c'è ancora da giocare una partita, la prossima sabato a Edimburgo contro la Scozia. Il rischio del cucchiaio di legno sarebbe il settimo nella storia delle Sei Nazioni, il 12° ultimo posto garantito, insomma le prospettive sono piuttosto magre, a dirla così, ecco. Ha quasi ragione chi immagina di farlo tornare un 5 nazioni. Sì, in qualche modo sì, nel senso che è pur vero che l'Italia alcune partite le ha vinte, anche in trasferta, in questi 18 anni qualcosa di buono ha fatto vedere. È anche vero che il processo di inserimento, si sapeva, sarebbe stato molto lungo, però insomma nelle ultime stagioni c'è stata una sorta di passo all'indietro molto grave, in particolare nelle ultime 3 o 4 con soltanto una vittoria, e questo insomma lascia molti dubbi, alcune perplessità, e chi vuole tornare all'antico e avere un torneo con soltanto 5 squadre a guardare i risultati può aver ragione sicuramente. Sì, qualche argomento ce l'ha. Mi chiedo se potessimo aspettarci di più da questa stagione, che era in un certo senso un anno zero dopo il fallimento precedente, con un nuovo tecnico, con tanti giovani, con l'idea di aprire un ciclo. Se non ci fosse stato lo storico successo di novembre contro Sudafrica, probabilmente no, perché abbiamo un nuovo allenatore, uno staff appena arrivato, e quindi è giusto dargli tempo e far sì che i tanti giovani che sono oggi nella rosa possano inserirsi con calma. In realtà quella vittoria di novembre a Firenze contro gli Springboks, mai battuti prima, una delle grandi potenze del mondo rugbistico, aveva in qualche maniera illuso, forse perché da un lato c'era un Sudafrica ai minimi termini, uno dei più scarsi di sempre, e perché in quell'occasione l'Italia in effetti aveva veramente disputato la partita da ricordare. Poi in realtà la realtà è stata molto più cruda di quello che era apparsa allora, e sono arrivate queste 4 sconfitte consecutive in questo torneo, pesanti, molto pesanti, al di là di quello che si è visto 2 settimane fa a Twickenham contro l'Inghilterra, dove per almeno 70 minuti la squadra è riuscita a tenere testa a questa grande Inghilterra lanciatissima verso addirittura record consecutivo di vittorie. Ma al di là di quello, insomma, ci sono arrivate 3 sconfitte consecutive, una più brutta dell'altra, e questo fa molto pensare. Probabilmente nemmeno il miglior staff possibile, perché a questo punto sicuramente quello guidato da Oshie è il più grande staff che ci possa essere, basta per risolvere i problemi dell'Italia. Occorre avere pazienza, molta molta pazienza. È anche vero che i tifosi, gli appassionati, dopo tanti anni di attesa cominciano anche a essere un pochino stufi. Perché non è tanto divertente, è vero, andare a vedere uno spettacolo di cui conosci il finale. Esatto, tanto è vero che insomma le presenze all'Olimpico, che sono sempre comunque considerevoli perché si viaggia a una media di poco inferiore ai 50.000 spettatori, e rispetto a altri numeri dello sport italiano restano comunque presenze considerevoli, è vero che rispetto anche al recente passato abbiamo un trend che dice di una certa disaffezione che anche nei confronti di questa nazionale, pur sempre supportata, pur sempre galvanizzata, è in atto. 50.000 Roma e Lazio non li vedono più da tempo, però esatto, una volta eravamo abituati all'Olimpico però... sempre pieno. Guarda, ti giro un messaggio che è appena arrivato via WhatsApp: l'unico effetto che provoca l'Ital Rugby è la rovina del prato dell'Olimpico, cosa che fino a 3 anni fa credo nessuno mai si sarebbe sognato di dire. Sì, mi sembra onestamente una considerazione un po' ingenerosa, perché non può essere solo questo, ovviamente. E comunque qualche talento in questa squadra c'è, insomma, quello che ha fatto per esempio Michele Campagnaro 2 settimane fa a Twickenham è negli occhi di tanti. Bisogna costruire intorno a questi ragazzi che ci sono, dei buoni nomi ci sono, Favola ormai è una realtà, ma ce ne sono anche tanti altri, insomma, senza ricitare per l'ennesima volta Capitan Parisse, che è sempre un gradino sopra gli altri. C'è un buon nucleo di giocatori ai quali bisogna dar tempo, farli maturare e soprattutto cercare nell'insieme come movimento italiano di crescere, perché il vero gap da colmare è a questo livello. I club che devono migliorare, il movimento stesso che deve migliorare, politicamente bisogna essere più forti, sono tanti aspetti dove occorre crescere, non è solo un problema dei singoli legato alla nazionale, ma un problema proprio di campionato che non c'è, di franchigie nel Pro 12 che devono lasciare gli ultimi posti ai quali sembrano essere ormai abbonati, insomma è un problema molto complesso. Dobbiamo crescere tutti, come dice Conor O'Shea, prima o poi il nostro rugby svolterà, prima o poi, Andrea, prima o poi. Bisogna capire quali sono i tempi di questo processo di crescita, insomma, proprio perché è vero che non ci sono tempi contati, perché comunque l'Italia è garantita nel Sei Nazioni almeno fino al 2024, per cui insomma i tempi per far bene ci sono. Però è anche vero che sarebbe ora di riportare a casa qualche bella vittoria. Sarebbe ora di starci meritatamente, non per contratto. Grazie Andrea. Grazie a voi. Grazie ad Andrea Bongiovanni. Io mi fermo qui. Ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato, Pietro Lacorte in regia. Grazie anche a tutti gli altri che sono intervenuti. Ci sentiamo domenica alle 17. Allora Massimiliano, ti devo far vedere tutta la partita. Interessa la moviola, vero? È che mi sa che con la moviola stasera bisogna stare qui fino a mezzanotte. I miei amici che mi aspettano a mangiare. Preferisco magari parlare tecnicamente la partita e lasciare il tuo lavoro a te.